Il solitario allora languisce in solitudine. Non ha altri piaceri che recarsi alla vicina stazione balneare per chiedere informazioni a un certo impiegato delle ferrovie. Ma questi ha avuto una promozione. È stato trasferito all'altro capo della Francia. Il solitario non potrà più andare a chiedergli l'orario dei treni, il prezzo dei biglietti di prima classe e prima di tornare, come Griselda, a sognare nella sua torre, si attarda sulla spiaggia. Strana Andromeda che nessun argonauta verrà a liberare. Sterile Medusa che perirà sulla sabbia. Oppure indugia oziosamente, prima che il treno parta, sul marciapiede, a gettare sulla folla di viaggiatori uno sguardo che sembrerà indifferente, sdegnoso o distratto a quelli dell'altra razza, ma che simile al risalto luminoso di cui sono provvisti certi insetti per attirare gli individui della stessa specie o al nettare offerto da certi fiori per attirare gli insetti che li feconderanno, non trarrebbe in inganno il quasi introvabile amatore d'un piacere tanto singolare, tanto difficile da collocare, che gli viene offerto il confratello col quale il nostro specialista potrebbe parlare la sua insolita lingua. Al massimo, qualche pezzente della stazione fingerà d'esserne interessato, ma solo in vista di un beneficio materiale, come quelli che al Collège de France, se vanno ad ascoltare la lezione nell'aula dove il professore di sanscrito parla senza uditorio, lo fanno per scaldarsi. Medusa, orchidea! Quando non davo retta che al mio istinto, la medusa Balbec mi ripugnava. Ma se sapevo guardarla, come Michelet, dal punto di vista della storia naturale e dell'estetica, vedevo una deliziosa girandola azzurra. Non sono forse, con il velluto trasparente dei loro petali violacei, le orchidee del mare? Come tante creature del regno animale e del regno vegetale, come la pianta che produrrebbe la vaniglia, ma poiché un diaframma separa in essa l'organo maschile dall'organo femminile, rimane sterile se gli uccellini mosca o certe piccole api non trasportano il polline dagli uni agli altri o l'uomo non le feconda artificialmente, il signor di Charlus, e qui la parola fecondazione deve essere intesa in senso morale, visto che nel senso fisico l'unione del maschio col maschio è sterile, ma non è indifferente che un individuo possa cogliere il solo piacere che è in grado di gustare, né che ogni essere quaggiù possa donare a qualcuno la sua musica, la sua fiamma o il suo profumo. Il signor di Charlus era di quegli uomini che possono essere definiti eccezionali, giacché per quanto numerosi siano, la soddisfazione dei loro bisogni sessuali, così facile in altri, dipende dalla coincidenza di troppe condizioni e troppo difficili da riscontrare. Per uomini come Charlus, a prescindere dai compromessi che si scopriranno a poco e di cui si è già avuto sentore, imposti dal bisogno del piacere che si rassegna a consensi parziali, l'amore reciproco, in aggiunta alle difficoltà così notevoli, a volte insormontabili, che gli si frappongono nelle persone comuni, ne incontra di talmente particolari che ciò che è molto raro per tutti diventa, nel loro caso, pressoché impossibile. E quando si verifica un incontro davvero felice, o che la natura fa apparire tale ai loro occhi, la loro felicità, ancor più di quella dell'innamorato normale, ha qualcosa di straordinario, di selezionato, di profondamente necessario. L'odio fra Capuleti e Montecchi non era niente in confronto agli ostacoli d'ogni genere che sono stati superati, alle particolari eliminazioni operate dalla natura sulle circostanze fortuite, già alquanto rare, che propiziano l'amore. Prima che un ex farsettaio, in procinto di recarsi buono buono al suo ufficio, vacilli, abbagliato, di fronte a un cinquantenne panciuto. Un tale Romeo e una tale Giulietta possono credere a buon diritto che il loro amore non sia il capriccio d'un istante, ma una vera e propria predestinazione, preparata dall'armonia dei loro temperamenti, e non solo dai loro personali, ma da quelli dei loro antenati, sino alla più remota eredità. così che l'essere con il quale s'accoppiano appartiene loro da prima della nascita e li ha attratti con una forza paragonabile a quella che governa i mondi nei quali abbiamo passato le nostre vite anteriori. A causa di Charlot, avevo tralasciato di controllare se il calabrone stesse portando all'orchidea il polline che essa aspettava da tanto tempo, che non poteva ricevere se non grazie ad un caso tanto improbabile da potersi definire una sorta di miracolo. Ma era un miracolo anche quello a cui avevo appena assistito, quasi dello stesso genere e non meno meraviglioso. Non appena ebbi considerato la cosa da questo punto di vista, tutto in quell'incontro mi parve soffuso di bellezza. Le più straordinarie astuzie escogitate dalla natura per costringere gli insetti a fecondare dei fiori, che senza di loro non potrebbero mai esserlo, già che il fiore maschio è troppo lontano dal fiore femmina, come quella, se tocca al vento, provvedere al trasporto del polline, di renderne molto più facile il distacco dal fiore maschio e molto più agevole per il fiore femmina coglierlo al suo passaggio, eliminando la secrezione del nettare, che non serve più per il semplice fatto che non vi sono più insetti da attrarre, e persino quanto avrebbe dovuto attrarli lo splendore delle corolle e l'astuzia, perché il fiore resti riservato al polline giusto, che può fruttificare solo in esso, di fargli secernere un liquido che lo immunizza contro gli altri pollini, non mi sembravano più meravigliose dell'esistenza della sottospecie di invertiti destinata ad assicurare i piaceri dell'amore all'invertito che invecchia. Gli uomini attratti, non da tutti gli uomini, ma per un fenomeno di corrispondenza ed armonia paragonabile a quello che regolano la fecondazione dei fiori eterostilati trimorfi come il Litrum salicaria, soltanto dagli uomini molto più anziani di loro. Jupien m'aveva appena offerto un esempio di questa sottospecie, meno impressionante, tuttavia, di qualche altro che ogni appassionato di erboristeria umana, ogni botanico morale potrà osservare, malgrado la sua rarità, e che metterà in evidenza il caso di un esile giovanottino, il quale aspettava precisamente le proposte di un robusto e corpulento cinquantenne, restando indifferente a quelle degli altri giovanotti, così come restano sterili i fiori ermafroditi a stilo corto della Primula veris, finché sono fecondati da altre Primula veris a stilo corto, mentre accolgono con gioia il polline della Primula veris a stilo lungo. Quanto a Charlot, d'altronde, mi resi conto in seguito che per lui c'erano diversi tipi di congiunzione, alcuni dei quali, a causa della loro molteplicità, della loro istantaneità appena visibile, soprattutto della mancanza di contatto fra i due attori, ricordavano ancor più da vicino quei fiori che in un giardino vengono fecondati dal polline di un fiore contiguo che non toccheranno mai. C'erano infatti certe creature che gli bastava far andare a casa sua, tenere per alcune ore sotto il dominio della sua parola, perché il suo desiderio, accesosi nel corso di qualche incontro, ne fosse appagato. Grazie alle parole, la congiunzione avveniva con la stessa semplicità con cui può verificarsi negli infusori. A volte, come certamente gli era accaduto con me, la sera in cui ero stato convocato a casa sua, dopo il pranzo da Germain, l'appagamento si instaurava grazie a una violenta reprimenda che il barone gettava in faccia al visitatore, così come certi fiori aspergono a distanza con un forte schizzo l'insetto inconsapevolmente complice e sconcertato. Il signor di Charlot, trasformandosi da dominato in dominatore, si sentiva purgato della propria inquietudine e, calmatosi, congedava il visitatore che di colpo aveva smesso di apparirgli desiderabile. L'inversione stessa, infine, derivando dal fatto che l'invertito si avvicina troppo alla donna per poter avere rapporti utili con lei, si ricollega in tal modo a una legge più generale, in base alla quale tanti fiori ermafroditi rimangono infecondi: la sterilità dell'autofecondazione. È vero che gli invertiti alla ricerca di un maschio si accontentano, spesso, di invertiti effeminati quanto loro. Ma è sufficiente che non appartengano al sesso femminile, di cui essi hanno in sé un embrione sia pure inutilizzabile, come succede a tanti fiori ermafroditi e persino a certi animali ermafroditi, come la lumaca, che non possono autofecondarsi, ma possono essere fecondati da altri ermafroditi. Per tale aspetto, gli invertiti, che amano richiamarsi all'antico Oriente o all'età d'oro della Grecia, risalirebbero ancora più indietro, a quelle epoche ancestrali in cui non esistevano né fiori dioici né gli animali unisessuati, a quell'ermafroditismo originario di cui alcuni rudimenti di organi maschili nell'anatomia della donna e di organi femminili nell'anatomia dell'uomo sembrano conservare la traccia. La mimica, dapprima per me incomprensibile, di Jupien e di Charlus, mi sembrava non meno curiosa dei gesti tentatori che i fiori detti compositi rivolgono, secondo Darwin, agli insetti, sollevando i semi fioroni dei loro capolini per essere visti da più lontano, come quell'eterostilato che gira i suoi stami e li curva per aprire un varco agli insetti, o che offre loro un'abluzione e, più semplicemente, paragonabile ai profumi di nettare, allo splendore delle corolle che proprio in quel momento attiravano qualche insetto nel cortile. A partire da quel giorno, il signor di Charlus avrebbe cambiato l'orario delle sue visite a Madame de Villeparisis. Non perché non potesse incontrarsi con Jupien altrove con più agio, ma perché, per lui come per me, il sole del pomeriggio e i fiori dell'arbusto erano indubbiamente legati a quel determinato ricordo. D'altronde, non si limitò a raccomandare Jupien a Madame de Villeparisis, alla duchessa di Guermantes, a tutta una clientela brillante e portata a frequentare tanto più assiduamente la giovane ricamatrice in quanto le signore che avevano riluttato, semplicemente tardato, furono oggetto da parte del barone di terribili rappresaglie, o perché servissero d'esempio, o perché avevano risvegliato la sua collera opponendosi alle sue trame egemoniche. Rese anche l'attività di Jupien sempre più lucrosa, sinché non lo assunse definitivamente come segretario, garantendogli la posizione che vedremo più avanti. «Ah, è proprio fortunato quel Jupien», diceva Françoise, che tendeva a sminuire o ingigantire i favori a seconda che a beneficiarne fosse lei o qualcun altro. In quel caso, peraltro, non aveva bisogno di esagerare, né motivo di provare invidia dal momento che voleva sinceramente bene a Jupien. «È una così buona persona, il barone», aggiungeva, «così distinto, così devoto, così per bene. Se avessi una figlia da maritare e fossimo gente su, la darei al barone a occhi chiusi». «Ma Françoise», obiettava dolcemente mia madre, «ne avrebbe un po' troppi di mariti quella figlia. Ricordatevi che l'avete già promessa a Jupien». «Diamine», si giustificava Françoise, «e che anche lui saprebbe renderla ben felice, una moglie. Hanno un bell'esserci dei ricchi e dei poveracci. Per natura è tutt'uno. Il barone e Jupien sono proprio lo stesso genere di persone». Allora, tuttavia, davanti a quella prima rivelazione, sopravvalutavo il carattere elettivo di una congiunzione così selezionata. Certo, ogni uomo simile a Charlus è una creatura straordinaria, giacché, se non fa concessioni alle possibilità della vita, cerca essenzialmente l'amore di un uomo dell'altra razza, vale a dire di un uomo che ama le donne e che di conseguenza non potrà amarlo. Contrariamente a quel che credevo quando in cortile avevo visto Jupien girare intorno al signor di Charlus, simile all'orchidea che cercava di attrarre un calabrone, questi esseri eccezionali dei quali si ha compassione sono una folla, come si vedrà nel prosieguo di questo libro, per una ragione che sarà rivelata solo alla fine. E loro stessi si dolgono d'essere troppi più che d'essere troppo pochi. Infatti, i due angeli posti davanti alle porte di Sodoma per accertare, dice la Genesi, se gli abitanti avessero commesso veramente tutte le cose il cui clamore era salito sino all'Eterno, erano stati scelti assai male e non si può che rallegrarsene dal Signore, il quale avrebbe dovuto affidare quel compito a nessun altro che a un sodomita. Quello, le scuse del tipo padre di 6 figli o 2 concubine, eccetera, non l'avrebbero certo indotto ad abbassare benevolmente la spada fiammeggiante e a mitigare le pene. Avrebbe replicato: «Già, e tua moglie soffre la tortura della gelosia. Ma anche quando quelle donne non sei andato a sceglierti la Gomorra, passi le tue notti con un guardiano di greggi di Hebron». E l'avrebbe rispedito senza indugio nella città che stava per essere distrutta dalla pioggia di fuoco e di zolfo. Invece, si lasciarono scappare tutti i sodomiti vergognosi, anche se questi, scorgendo un ragazzo, si giravano a guardarlo, simili alla moglie di Lot, ma senza essere mutati come lei, in statue di sale. E fu così che ebbero una copiosa posterità a cui rimase abituale quel gesto, non diverso da quello delle donne dissolute, che con l'aria di guardare un'esposizione di scarpe dietro una vetrina, si voltano a sbirciare uno studente. Discendenti dei sodomiti, così numerosi che è il caso di citare per loro l'altro versetto della Genesi: «Se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche questa posterità». Si sono fissati ovunque sulla terra, hanno avuto accesso a tutte le professioni e si introducono con tanta facilità nei circoli più chiusi che, quando un sodomita non viene ammesso, la maggior quantità di palle nere proviene proprio dai sodomiti, ai quali preme incriminare la sodomia perché hanno ereditato la menzogna che permise ai loro antenati di lasciare la città maledetta. È possibile che in futuro vi facciano ritorno. Certo è che in ogni nazione essi formano una colonia orientale, colta, musicofila, maldicente, con affascinanti qualità e difetti insopportabili. Le pagine che seguono ce ne daranno una visione più approfondita, ma si è voluto intanto prevenire l'errore funesto che consisterebbe nel creare un movimento sodomita, così come si è incoraggiato un movimento sionista e nel rifondare Sodoma. Appena ci mettessero piede i sodomiti, abbandonerebbero la città per dare l'impressione di non essere tali. Prenderebbero moglie, manterrebbero amanti in altre città dove, ben inteso, si procurerebbero ogni opportuna distrazione. Andrebbero a Sodoma solo nei giorni di necessità estrema, quando la città fosse vuota, in quei periodi in cui la fame fa uscire i lupi dalla foresta. In altre parole, tutto si svolgerebbe esattamente come a Londra, a Berlino, a Roma, a Pietrogrado o a Parigi. Quel giorno, comunque, prima di far visita alla duchessa, non solo non mi spingevo così in là col pensiero, ma anzi mi rammaricavo di avere forse perduto, per star dietro alla congiunzione Jupien-Charlus, lo spettacolo della fecondazione del fiore da parte del calabrone.